Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Ritratto di Vittorio Emanuele II di Savoia. Di Vittorio Emanuele II si discute persino la paternità, basso e tarchiato, non certo magro e alto come padre e fratello, ma è solo una delle ombre che si allungano sul padre della patria. Si è scoperto che era poco liberale e che decise di mantenere lo statuto dopo l'ascesa al trono nei giorni della sconfitta di Novara solo per garantire un minimo di stabilità al regno. È un fatto che si sentisse più garantito dai moderati, però aveva capito che il vecchio sogno dei Savoia di allargarsi ormai si chiamava Italia e per questo accettò le limitazioni di potere maturate dalla vita parlamentare del suo regno. E così alla fine fu re galantuomo. Divenne il sovrano di uno stato tutto nuovo, un re che adorava la caccia, i cavalli, le escursioni in montagna e parlava ai ministri in piemontese. E amava la sua Rosina Vercellana, la moglie morganatica che dopo la morte di Maria Adelaide divenne la vera compagna di vita. Morì per un'infreddatura dopo una notte passata alla ghiaccio a dicembre durante una caccia. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore.